24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Sergio Nava, ben trovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano la chiusura positiva dell'operazione dello scambio del debito greco. Ora si guarda avanti, anche perché l'Europa è chiamata a rafforzare il fondo salva stati, come non ha mancato di ricordare il Fondo Monetario Internazionale. Oggi è ampia pagina dedicata alle tensioni internazionali che riguardano l'Italia, in India, dove è entrata in gioco anche l'Europa, e sull'asse Roma-Londra, dopo il tragico epilogo di un'operazione di liberazione di due ostaggi in Nigeria. Infine parleremo anche di Golden Share. Per lo swap del debito della Grecia si può parlare di successo. Lo scambio dei titoli consente di voltare pagina. Lo afferma il direttore generale dell'Istituto per la Finanza Internazionale, Charles Dallara. Sospiri di sollievo in tutte le capitali europee per un'operazione che ha superato le attese. Venerdì sera il governo ellenico ha fatto scattare le clausole di azione collettiva per portare vicino al 100% lo swap sui titoli. Sentiamo il servizio. Il governo greco ha reso noto questa mattina alle 7 che la partecipazione allo scambio obbligazionario, che è il più grande della storia, raggiungerebbe il 95,7% di adesioni dopo il via libera all'attivazione delle clausole di azione collettiva che costringono tutti ad aderire. Gli obbligazionisti sotto legge greca hanno consegnato 152 miliardi di euro, pari all'85,8% del totale, e 20 miliardi sotto legislazione internazionale, pari al 69% del totale. Atene spera così di ridurre da 206 a 100 miliardi il debito in mano ai privati. Ora la parola passa questa mattina all'Eurogruppo, che si riunisce in teleconferenza per dare il via libera alla prima tranche del secondo piano di aiuti da 130 miliardi di euro. Vittorio Darolda, Radio 24, Il Sole 24 Ore. L'Europa deve rafforzare il firewall anticrisi, senza il quale anche l'Italia è a rischio dopo la Grecia. Lo afferma il direttore generale dell'FMI, Christine Lagarde, che aggiunge: non ho la minima sensazione che ciò stia succedendo, ma la crescita è bassa, il debito molto alto e così credo sia nell'interesse dell'Europa fermare il contagio. Sempre per la Lagarde, da quando è premier, Mario Monti ha dato all'Italia un senso di serietà, concentrazione e determinazione a portare il paese fuori dalla depressione in cui si trovava. La Lagarde ha aggiunto: i due Super Mario che hanno lavorato insieme hanno cambiato in meglio le prospettive del 2012. L'altro Mario, evidentemente, è il presidente della BCE, Draghi. E ora al microfono di Sebastiano Barisoni il commento dell'economista Daniel Grossa, direttore del CEPS di Bruxelles. Per il momento non si è chiusa la storia, si è evitato, come dire, un disastro conclamato. Per il momento si è eliminato molto di quel debito pubblico che la Grecia, e per quel debito privato che la Grecia non doveva, ma rimane moltissimo debito pubblico, ancora di più di prima. E questo debito che è dovuto alla Grecia, al Fondo Salva Stati, al Fondo Monetario Internazionale, anche alla Banca Centrale Europea, questo debito molto probabilmente si dovrà ristrutturare fra un anno, ma un debito pubblico si può ristrutturare senza, come dire, senza dare all'occhio, si allunga un po' la scadenza, si riduce un po' gli interessi e quasi nessuno se ne accorgerà. L'accordo sul debito greco ha fatto salire le borse, l'Europa ha terminato generalmente positiva, con Parigi a più 0,2% e Francoforte a più 0,6%, ma a Piazza Affari, trascinata a ribasso dalle banche, chiude in rosso dell'1,1%. La cancelliera tedesca Angela Merkel sarà a Roma martedì per incontrare il presidente del Consiglio Mario Monti e quello della Repubblica Giorgio Napolitano. Il 17 febbraio la visita della cancelliera tedesca era saltata a causa delle improvvise dimissioni del presidente Christian Wulff. E il presidente della Commissione Europea Barroso sarà in visita in Italia venerdì 16 e sabato 17 marzo. Il programma è ancora in corso di definizione, ma sicuramente Barroso avrà un incontro con il premier Monti. E ora un'ampia pagina sulle crisi internazionali che coinvolgono l'Italia. Cominciamo con l'India. Confido su un'azione attiva dell'alto rappresentante della politica estera europea e su una voce autorevole europea anche nei confronti delle autorità indiane. Così il ministro degli esteri Giulio Terzi, dopo un incontro con l'alto rappresentante Catherine Ashton. L'Unione è pronta a fare tutto il necessario per risolvere la vicenda dei due Marò detenuti in India, ha assicurato la Ashton. Le tensioni Italia-Gran Bretagna, al Comitato Interministeriale per la Sicurezza, presieduto dal Premier Monti, si è discusso del blitz delle forze speciali britanniche in Nigeria, nel quale sono rimasti uccisi l'italiano Franco La Molinara e il britannico Chris McManus. Secondo fonti diplomatiche britanniche, che hanno parlato con il quotidiano L'Independent, gli italiani, che non avevano presenza sul terreno, erano stati informati dell'eventualità del blitz. I rapitori di Franco La Molinara e Chris McManus stavano pensando di vendere i due ostaggi ad un gruppo più radicale che avrebbe potuto ucciderli. È per questo che il premier britannico Cameron avrebbe fatto scattare il blitz improvviso ieri in Nigeria, costato poi la vita ai due ostaggi nelle mani di un gruppo vicino ad Al-Qaeda dal maggio del 2011. Secondo il Daily Telegraph, i due sarebbero stati uccisi proprio dai rapitori con un colpo ravvicinato alla testa una volta cominciato il blitz, che ha coinvolto una quarantina di uomini delle forze speciali britanniche. Altre fonti invece dicono che ad ucciderli sarebbe stato il fuoco amico. Non è ancora chiaro inoltre perché il blitz sia scattato di giorno. Dura la reazione del premier Monti, che vuole vederci chiaro su tutta la vicenda e capire perché il nostro paese non sia stato informato prima dell'operazione. Fonti britanniche però sostengono che gli italiani erano stati informati dell'eventualità di un blitz imminente. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Quanto pesa l'immagine internazionale dell'Italia dopo le ultime crisi? Sentiamo il commento di Marco Giaconi, direttore di ricerca del Centro Studi Strategici Militari. Gran Bretagna, Francia, per certi aspetti la stessa Germania, che pure non ha partecipato direttamente alle operazioni in Libia, non ritengono più l'Italia una media potenza, e ci ritengono una piccola potenza, come la Serbia e il Portogallo. Siamo passati in Serie B. Il nostro comportamento sul fronte libico è stato ottimo, soprattutto da parte dei servizi e dell'aviazione, che ha fatto un'operazione straordinaria. Ma il problema è il comportamento politico. Ne abbiamo molti di spread geopolitici e strategici da ricostruire. Ma credo che sul piano proprio strategico e geopolitico lo spread italiano sia ancora maggiore di quello di quanto non accada in ambito finanziario. Un intervento militare in Siria potrebbe provocare un conflitto su vasta scala. Ad affermarlo il ministro degli esteri tedesco Guido Westerwelle, che ha definito una discussione su un'opzione militare controproducente. Il Parlamento di Zagabria ha ratificato all'unanimità, con 136 voti a favore e nessuno contrario, il trattato di adesione della Croazia all'Unione Europea, che dovrebbe diventare il 28esimo paese membro a partire dal 1 luglio 2013. Il trattato, dopo quasi 6 anni di negoziati, è stato firmato a Bruxelles a dicembre e approvato a gennaio in un referendum popolare. Di nuovo a Roma, stavolta per parlare di Golden Share. Con il decreto legge approvato in Consiglio dei Ministri sulla Golden Share, Palazzo Chigi rivede di fatto i poteri speciali dello Stato per tutelare le società che operano in settori strategici come l'energia, i trasporti, le telecomunicazioni e la difesa. Le nuove norme puntano anche a chiudere la procedura di infrazione aperta nel 2009 dalla Commissione europea. In concreto, il provvedimento varato dal governo disciplina l'utilizzo del potere di veto dello Stato di fronte ad eventuali interessi esterni verso quelle società che sono ritenute strategiche per il Paese. Tale potere di veto potrà essere esercitato dalla Presidenza del Consiglio nei settori energia, trasporti e telecomunicazioni solo nel caso di potenziali acquirenti extra Unione Europea, mentre per il settore della difesa e della sicurezza nazionale i poteri speciali potranno essere usati anche nei confronti dei paesi europei. Quanto alle altre decisioni del Consiglio dei Ministri, è stata istituita tra l'altro per il 17 marzo di ogni anno la giornata della nascita dello Stato italiano. Viene poi recepita una direttiva comunitaria in tema di sicurezza della navigazione marittima. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. In chiusura parliamo di un mito. Enzo Ferrari apre a Modena uno dei più grandi e interessanti musei dell'automobile di tutto il mondo, che ingloba l'edificio in cui nacque il fondatore della scuderia. Dario Ceccarelli ha intervistato il presidente Mauro Tedeschini. La casa natale di Enzo Ferrari diventa un museo. Come nasce questa iniziativa? Beh, nasce per rendere merito alla memoria non solo di Enzo Ferrari, ma di tutta la storia dell'automobile sportiva modenese. Modena è un'altra capitale dell'automobile italiana oltre a Torino, ma mentre a Torino si è sempre parlato di grande industria, a Modena si è sempre parlato invece di passione. E quindi qui c'è la storia di questa grande leggenda, appunto, non solo di Enzo Ferrari, che qui nacque, ma anche di Maserati, Stanguellini, De Tomaso, Pagani, Scaglietti, insomma tutti questi grandi nomi legati soprattutto alle corse e alla passione. Quindi l'operazione è duplice: da un lato recuperare la dimensione di Ferrari uomo e dall'altro le sue macchine. Bravissimo, esattamente questo. Qui c'è proprio la leggenda di questo personaggio che fin dall'inizio appunto pensava in grande, voleva, come diceva lui, diventare Enzo Ferrari e ha realizzato questo sogno. Ed è un sogno che è partito da questa casa che lui vendette a 21 anni per comprare un'automobile da corsa, cosa che nella prima parte del secolo, parliamo del 1919, non era una cosa così normale e così comune. E quindi qui viene descritto non la storia di un'industria, ma la storia di un sogno, ecco, di un sogno di andare forte, ma soprattutto di andare più forte dei rivali.